Iglesias. Questo brano ci ha fatto ballare un'intera estate, quello di Enrique Iglesias, qui su Radio Stonata. Sono le 14:49 minuti. Questo, ve lo ripeto fino alla noia, è Il Viaggio, nuovo programma che va in onda tutti i sabati dalle 14 alle 16, non sbagliamo niente. E aggiungiamo ancora un altro pezzo di nonsoloturisti.it, perché lo sapete, su nonsoloturisti.it potete raccontare il vostro viaggio e poi verrà pubblicato. E ragazzi, facciamo suonare le trombe, rullo di tamburi, quello che volete voi, partiamo anche con questa nuova avventura e vi presento la prima di una lunga serie di ospiti appunto da nonsoloturisti.it, Barbara Ciccola, vero Barbara? Sì, sono io, piacere. Non piacere, anche se da lontano, vi allungo la mano e niente, sono una collaboratrice di Non Solo Turisti da circa un anno. Ho conosciuto Marco Allegri 2 anni fa, ma ho iniziato a scrivere articoli, a condividere le mie esperienze in viaggio e collaborare attivamente con loro da circa un anno. Dunque i miei post li trovate circa da un anno, insomma, okay, pubblicati. Quindi da un anno collabori con nonsoloturisti.it, quindi immagino ami viaggiare. Sì, amo viaggiare, è veramente un'energia quella del viaggio. Io cerco di pianificarmi addirittura dei viaggi di 6 mesi in 6 mesi per avere proprio degli obiettivi miei di vita e dire, che ne so, tipo a giugno, dire a Natale sarò là e pensare, comunque sognare questo viaggio, progettarlo in maniera anche molto diluita nel tempo. È un po' una mia, sì, una mia passione. Ma... che sta crescendo tra l'altro, non diminuisce. No, l'ho capito un po' dalle cose che hai scritto e che ho letto. Ma se ti dico, ti ricordi il primo articolo che hai scritto per nonsoloturisti.it? Allora, io ho scritto il primo articolo all'ottobre. Quindi è il primo viaggio di cui racconti, dai. Sì, insomma, diciamo che la prima cosa pubblicata attraverso loro è stata una esperienza a Perugia, nel lancio di Perugia capitale europea, che era appunto in... diciamo con Matera e le altre città, Siena credo, potenzialmente una capitale europea. E poi insomma io ho provato a condividere, ho chiesto loro se avevano voglia di condividere le mie esperienze di viaggio che tenevo nel cassetto, perché mi piace molto scrivere dei miei viaggi e fotografare. Loro ne sono stati ben lieti e da lì è nata insomma una collaborazione incrociata. Io do quello che magari può interessare al pubblico di Non Solo Turisti e Non Solo Turisti mi propone alcune esperienze di viaggio compatibilmente con i miei impegni e la mia vita. Fantastico. Quindi mi pare di capire che queste bellissime foto che vedo nel tuo ultimo articolo, che tra un po' ci racconterai, le hai realizzate tu? Sì, gran parte, a parte qualcosa insomma che tecnicamente magari non va bene, che do io, che condivido io, e magari Flavio decide invece come editor di scegliere altri tipi di foto segnalando però qual è la fonte, di solito sono le mie. Sì, sono anche in un profilo di Instagram. Sì, mi piace insomma fotografare, ho una mia reflex, ma oramai con il fatto della condivisione moltissimo faccio attraverso lo smartphone. Ma una domanda che non riguarda niente col viaggio, com'è Flavio come capo? Sai, secondo me non ci sta ascoltando, quindi puoi parlare pure male. Siamo sicuri che doveva andare a mangiare i tortelli, secondo me. Doveva andare a mangiare, bravo. Dunque, molto preciso, ma di una precisione insomma sicuramente produttiva e stimolante. Devo dire che per un mio articolo legato ad una loro esperienza di viaggio che mi avevano proposto, credo il gennaio scorso, nelle terre del Dogado, intorno a Venezia, Flavio mi fece complimenti e io stampai la mail e l'ho attaccata sotto la laurea. Laureata, per credere o no, però l'ho ritenuto un bel complimento, insomma, infatti, di quelli che ricordo. Ma invece arriviamo al tuo ultimo articolo. Sì. Di che cosa parla? Dove sei stata? Allora, il mio ultimo articolo in realtà sono 4 articoli, nel senso che io ho fatto il mio viaggione estivo, mio personale, in Mongolia. Quando sono tornata, come mio solito, in estate, sono tornata nelle Marche, nella zona del Fermano, da cui, insomma, la mia terra natale, perché ora vivo in Emilia, però sono marchigiana. E parlando con delle persone che conosco, così, anche di questa mia esperienza con Non Solo eccetera, è venuto fuori, ma perché non tiriamo fuori un po' la vera essenza delle Marche, attraverso proprio dei racconti ben mirati e attraverso il racconto di una persona che è marchigiana, però allo stesso tempo ho fatto un salto fuori ed è una viaggiatrice, cioè io. Uh-huh. Allora ho iniziato a crearmi una sorta di rete attraverso gli amici, eccetera, per la serie che cosa possiamo raccontare di questa terra. E sono venuti fuori 4 post, secondo me anche belli, ma non solo secondo me, perché vedo che insomma li stanno leggendo e condividendo molte persone, che vanno da racconto di Fermo al Porto San Giorgio, uh-huh, fino alle terre dei Sibillini, e 2 affondi un pochino più particolareggiati su piccolissimi borghi, veramente alcuni anche di 100 anime, che però raccontano veramente la marchigianità e la fermanità. Perché è una terra, le Marche sono una terra molto bella, molto particolare, ricchissima, che si sta riuscendo a vendere, a valorizzare, soprattutto negli ultimi anni, e il fermano in particolare ha un cuore che è tutto da scoprire. Mm-hmm. Dunque io in questi post ho provato a raccontare le specificità di questi piccoli paesi, la gente che ci abita, l'atmosfera, almeno io ho provato a raccontarla, e anche piccolissime realtà che magari non hanno quella visibilità pubblica che meriterebbero, ma che proprio a maggior ragione in quanto piccole devono essere valorizzate. Dunque sono andata a casa di persone che producono, piccolissime aziende che producono il miele, che lo fanno insomma con veramente un amore nei confronti della terra, che cercano di sensibilizzare gli agricoltori vicini per non usare il più possibile fertilizzanti, insomma essere il più possibile biologici. E ho ritrovato persone magari che conoscevo 15 anni fa, che erano dei ragazzini che ora hanno aperto dei bed and breakfast, degli agriturismi, o aperto o approfondito il discorso biologico e si sono allargati al turismo. Dunque ho provato insomma a tirar fuori tutto questo intreccio di vita che poi si vende anche al turismo senza vendersi. Ah, okay. Perché secondo me insomma la vera bellezza anche di queste terre sta in questo, cioè vendere un prodotto turistico ma non essere diverso da quello che si è. Dunque si entra in questi posti che sono diventati di bed and breakfast, ma si vive veramente l'atmosfera di casa come era quella di mia nonna, dove io mangiavo pane e pomodoro a merenda, ecco, affacciandomi sulle colline. Ah, okay. Quindi hai fatto un po' un viaggio a ritroso anche nei tuoi pensieri e nei tuoi ricordi, assolutamente del sì. passato. Assolutamente sì, è stata proprio una bella esperienza, mi sono trovato un po' a ponte. Sì, si vede che proprio ti ha lasciato tanto dentro questo viaggio. Comunque Barbara, io ti ringrazio, sei stata gentilissima ad accettare il nostro invito e spero di riaverti di nuovo qua a raccontarci un altro viaggio. Perfetto, ci mettiamo d'accordo con Flavio. Allora, okay. Ciao Barbara e grazie ancora. Grazie a voi, ciao.